Riprendiamo dopo l'interruzione di 2 settimane la nostra storia del Santo Curato d'Ars, iniziata nell'agosto 88 e non ancora completata. Anzi, direi che ora siamo proprio nel vivo della storia, vero? In quanto stiamo facendo passare le sue principali virtù. E abbiamo già descritto, se ricordate bene, l'umiltà e la povertà. E ora stiamo descrivendo la pazienza, e la pazienza nel sopportare le prove e le avversità della vita, ma anche la pazienza nel sopportare le persone moleste, vero? E ora la nostra attenzione si deve concentrare su un tema più specifico, cioè la pazienza nel sopportare le sofferenze corporali, vale a dire i molti mali fisici, i molti disturbi che affliggevano il santo, ognuno dei quali forse sarebbe bastato a neutralizzare, a demolire la nostra pazienza, no? La nostra debole pazienza. Ma prima, carissimi, noi vogliamo fermarci ancora un attimo sulla figura di colui che rappresentò una grave prova per la pazienza del curato d'Ars, ma direi anche e soprattutto una grave prova per la popolazione di Ars. Vale a dire quel famoso Don Raimond, che era stato mandato dal Vescovo in aiuto al santo, ma che si rivelò fin dal primo istante più un ostacolo che un aiuto. Ricorderete che il primo atto di Don Raimond, non appena giunto ad Ars, fu quello di prendersi per sé la camera del curato, costringendolo ad abitare un locale umido e malsano posto a pian terreno. Ricorderete poi che questo prete poco delicato pretendeva che il curato gli dicesse tutto e gli rivelasse tutto e sottoponesse al suo parere ogni decisione. Probabilmente lo faceva in buona fede, eh? Sì, anzi gli sembrava così di compiere un atto di obbedienza al vescovo, il quale l'aveva mandato lì apposta per alleggerire il santo, collaborando con lui ed eventualmente sostituendolo in alcune cose, in alcune mansioni, come per esempio la direzione del pellegrinaggio, cui lui ormai con le sue deboli forze non poteva più badare. Per cui a questo prete, a quanto pare, sembrava proprio di fare l'obbedienza del vescovo comportandosi così, comportandosi in questo modo, a dir poco invadente e spesso indelicato. Fatto sta che per il curato fu un esercizio di pazienza notevole. Abbiamo già detto che si formò presto ad Ars un comitato di persone, di parrocchiani, che miravano a farlo sloggiare dal paese, perché ormai la situazione si era fatta intollerabile, al punto che il nostro zelante apostolo arrivava perfino a disapprovare dal pulpito le decisioni del curato, e i suoi metodi che lui giudicava spesso antiquati, quindi sorpassati. Vi era perciò chi si domandava se si poteva ancora tollerare in Ars un prete che si rendeva oggetto di lamentele fondate. Per cui le persone che appartenevano a questa specie di comitato un giorno ritennero conveniente parlare di tutte queste cose allo stesso curato, al quale spiegarono che si trattava di uno stato di cose già troppo tollerato. Don Vianney da parte sua ne fu molto impressionato e, attenti, incaricò subito fratello Atanasio di scrivere una lettera al vescovo, ma non per gettare legna sul fuoco, ma al contrario per gettare acqua sul fuoco. Cioè in questa lettera dovevano mettersi in risalto anche i meriti di Don Raimond. Perché? Perché nel caso che il vescovo avesse già deciso di rimuoverlo, gli fosse accordato un buon posto. Cosa che poi avvenne realmente. Però colpo di scena. Quando fratello Atanasio gli presentò la brutta copia di questa lettera al vescovo, egli cosa fece? Beh, prima si concentrò per rifletterci sopra ancora un po' e pregare. E poi, dopo appena pochi istanti, la stracciò. La stracciò dicendo: ho pensato che il Signore in questi giorni della Settimana Santa, dato che si era nella Settimana Santa, ha portato la sua croce. E io posso ben fare come lui. Notate, un giorno aveva quasi acconsentito che fosse il conte di Garè, il sindaco, a parlare al vescovo di queste cose, in un colloquio che doveva aver luogo a Bourg. Però al momento propizio il santo aveva già mutato parere. E quando il sindaco espose al vescovo le ragioni che dovevano indurre il vescovo stesso a una rimozione, ragioni valide e motivate, il vescovo Monsignor De Vie poteva già presentare al sindaco una lettera del curato, il quale lo pregava di lasciargli ancora per qualche tempo il suo, tra virgolette, caro Don Raimondo. Beh, fortuna volle che lo stesso Don Raimondo comprendesse da solo, illuminato dal cielo, che la sua posizione era ormai assolutamente insostenibile e che non sarebbe riuscito mai e poi mai a prendere il posto di quel prete tanto acclamato dalla folla, che era appunto Don Vianney, come egli invece desiderava. Per cui, avendone fatto parola al vescovo stesso del suo desiderio di lasciare presto Ars, ecco che fu subito nominato parroco di Iaia, con grande gioia e soddisfazione di tutti i parrocchiani, i quali si vedevano così liberati da un incubo e da un individuo ambizioso e attaccabrighe che ormai in paese non metteva che scompiglio con la sua invadenza e con la sua indelicatezza. Ecco, però dobbiamo dire, carissimi, che anche dopo la sua partenza Don Raimond godette la particolare benevolenza di Don Vianney, che gli scriveva per esempio: «Mi siete stato così utile e mi avete fatto tali servizi che avete un posto tutto speciale nel mio cuore». E lo stesso Don Raimond dirà in seguito: «Io lo vidi 8 giorni prima della sua morte e non dimenticherò mai né la sua affettuosa accoglienza né la generosità con la quale mi donò un piviale, come ricordo. Appena intesi la notizia della sua fine, partii per Ars, dove ebbi la consolazione di abbracciarlo per l'ultima volta». Bellissimo, eh? E dobbiamo anche ricordare, carissimi, che secondo l'invito avuto dai confratelli che parteciparono ai funerali del santo, Don Raimond iniziò presto a scrivere anche una vita del curato d'Ars, di cui però purtroppo rimangono solo pochi frammenti, ma anche da queste poche pagine che abbiamo, come anche dalle deposizioni che egli fece al processo di beatificazione, noi possiamo capire l'ammirazione e la simpatia che il suo antico vicario aveva per il Don Vianney. Ma ora, carissimi, passiamo a un altro argomento, e precisamente a quel capitoletto intitolato «La pazienza del santo nelle sofferenze corporali». E dobbiamo subito dire che la pazienza del curato d'Ars, se fu straordinaria nelle sofferenze morali, non fu meno costante né meno considerevole nelle sofferenze corporali a lui causate dalle malattie. E anche di questo dobbiamo fare un sia pur breve accenno dopo aver sentito il racconto di coloro che godettero della sua confidenza. Dunque, primo, facciamo un elenco. Al braccio sinistro aveva un cauterio, una scottatura, che gli doveva essere particolarmente dolorosa, perché è successo che qualche volta, quando i pellegrini lo osservavano troppo da vicino, si lasciasse sfuggire, sia pure senza mostrarsi contrariato, questo lamento: «Adagio, adagio, mi fate male!» Poi, secondo, una testimonianza dello stesso Don Raimondi, il quale dice: «Per ben 15 anni fu tormentato dai reumatismi che aveva contratto nei primi giorni del suo ministero ad Ars, quando aveva scelto per camera da letto un locale freddo e umido, per cui ne ebbe come conseguenza dolori di capo violenti. Più volte fu visto portare la mano alla fronte e si intese questo gemito: «Oh, quanto soffro!» Poi, continua ancora Don Raimond, per l'assenza di moto fu soggetto a stordimenti e per curarli si sottopose ogni anno a un salasso, come si usava allora. Poi inoltre, predicando, nello sforzo di predicare, contrasse un'ernia doppia, della quale però non si preoccupò molto, ma si notò che quando usciva dal confessionale procedeva a chino e i pellegrini se ne meravigliavano. La ragione fu conosciuta solo quando fu necessario l'intervento medico. Ecco, questa è la testimonianza di Don Raimond. Camillo Monnain, altro biografo, afferma che il santo durante le visite non si sedeva mai, e può darsi che questa abitudine gli fosse suggerita da un sentimento di cortesia verso gli ospiti, vero? Ma non doveva essere estraneo a questo comportamento il dolore che derivava dalle piaghe contratte nelle sue interminabili sedute al confessionale. Inoltre sappiamo che soffrì anche per il mal di denti, e più volte si raccomandò al maestro Pertinan, che era un po' il suo tuttofare, perché gliene strappasse qualcuno con le tenaglie. Il fatto meraviglioso è però, carissimi, che mentre il suo povero corpo era tormentato da così vivi dolori, il suo spirito rimaneva impassibile. Invano si sarebbe cercato nelle sue conversazioni o nel suo contegno un segno qualsiasi che ne indicasse il tormento. La contessa di Garè, che un giorno l'aveva invitato a benedire certi lavori, accortasi che si soffriva terribilmente, lo invitò a prendere qualcosa. Egli si accontentò di rispondere con un sorriso: mancherebbe altro che si prendesse qualcosa ogni qualvolta si soffre. Spesso, mentre faceva la preghiera della sera, lo si vide scomparire dal pulpito come vinto dal male. Poi ricompariva e predicava ancora come se nulla avesse provato. Facciamo un piccolo stacco, piccolissimo, poi continuiamo la seconda parte. Beh, ora, carissimi, dopo questi esempi di eroica pazienza, che tanto contrastano con la nostra impazienza, vero? Impazienza nel sopportare qualsiasi piccolo bubù, passiamo ora ad altro argomento. E affrontiamo un capitoletto introduttivo, cui seguono poi uno per uno i vari punti, intitolato così: La mortificazione del santo, esempi più da ammirare che da imitare. Dunque la pazienza del nostro eroe ci è parsa già un esempio meraviglioso, esempio senz'altro, per quanto ci è possibile, imitabile. Invece, per quanto riguarda la sua mortificazione, portata fino ai limiti estremi delle forze umane e anche più in là ancora, si può forse, senza forse, considerare come un esempio da ammirare, più che come un modello da imitare. Il conte di Garè, che conobbe molto da vicino il santo, afferma che egli era riuscito a distruggere completamente il vecchio Adamo, e che non ha mai accordato alla natura alcuna soddisfazione. E sua moglie, la contessa di Garè, aggiunge: la sua mortificazione è stata costante, spinta fino all'eccesso e completa. La vita penitente di un trappista è nulla in confronto alla sua, e penso che la mortificazione cristiana non possa essere spinta oltre quei limiti. Quando si è vista la penitenza del curato d'Ars, non si prova più meraviglia leggendo quello che vi è di più straordinario nella storia dei padri del deserto. E un missionario, Don Dufour, tenta anche di chiarirne le ragioni. Afferma infatti che la sapienza umana può meravigliarsi di tali macerazioni di cui non si rende conto, ma l'uomo che liberamente vi si era sottomesso ne sentiva l'ispirazione e l'assistenza dall'alto. Del resto, carissimi, non aveva detto egli stesso che nella via della penitenza è solo il primo passo che costa? E facciamo osservare, tuttavia, che appunto per fare questo benedetto e famoso primo passo e giungere poi fino alla vetta di una così difficile virtù, una così difficile strada, è necessario l'eroismo, vero? L'eroismo aiutato naturalmente dalla grazia. Allora adesso, carissimi, come primo punto di questo suo spirito di mortificazione, più da ammirare che da imitare, noi vogliamo parlare del suo primo strumento di penitenza, vale a dire il confessionale. Ecco, nella vecchia canonica di Ars si contemplano riuniti come un trofeo di vittoria i cilici e i flagelli di Don Vianney. Ma dobbiamo senz'altro dire, carissimi, che lo strumento di penitenza più spaventoso non è là, nella casa, ma se si vuole osservarlo bisogna andare in chiesa, nel luogo stesso dove il buon curato ha tanto patito, ed è precisamente il suo confessionale. Il più orribile strumento di martirio e di penitenza. Non si esagera se si afferma che egli si è crocifisso liberamente, diventando, secondo la parola di un testimone, un martire della confessione, un martire del confessionale. E dobbiamo osservare che a coniare questo termine fu proprio lo stesso Don Raimond. Però dobbiamo ribadire che il santo fu martire volontario, perché se lo avesse proprio voluto, sarebbe certo riuscito a fuggire dai peccatori e sarebbe riuscito a nascondersi in un chiostro o in un deserto. Ma l'amore grande per le anime gli consigliò sempre di rimanere ad Ars. Quindi se noi confrontiamo questi anni con gli anni della sua giovinezza, dobbiamo dire che da giovane egli ha passato le giornate migliori, in mezzo ai campi, respirando l'aria pura delle colline a lui tanto care. Ora invece, anche nei giorni in cui un cielo dolcissimo consiglia le passeggiate, rimane al suo posto, a disposizione dei poveri peccatori. Ma possiamo anche fare un confronto fra questi anni e i primi anni passati ad Ars. Il biografo scrive che fin dai primi giorni della sua vita pastorale in Ars, soddisfacendo a un bisogno del suo cuore sensibile, che si espandeva davanti alle bellezze della natura, aveva preso l'abitudine di percorrere la ridente valle del torrente Fontblanc, ombreggiata dai pioppi. Ora invece, stando nella sua chiesa, e pur non essendo separato da questo incanto che da poche case, tuttavia per 30 anni rinuncia volontariamente a gustarne la freschezza e le ombre tranquille. Notate, carissimi, che basterebbero alcune ore di confessionale per estenuare anche il sacerdote più robusto, che ne esce sfinito, incapace di fissare un pensiero, senza più né sonno né appetito, né volontà di ritentare la prova. E tuttavia il curato d'Ars, nelle interminabili sedute al confessionale, compì un lavoro, una mole di lavoro tale che regolarmente avrebbe estenuato 6 confessori. E Don Raimond, che l'ha visto all'opera, dice che il sopportare tanta fatica gli parve subito, fin dall'inizio della sua missione di vicario, gli parve subito un fatto miracoloso. Diversamente, come spiegare che un prete, in mezzo a così gravi infermità e con un regime di vita tanto austero, abbia potuto passare, per così dire, la sua vita in confessionale? La mia salute, grazie a Dio, è eccellente, continua Don Raimond, ma vi dico sinceramente che non avrei resistito una settimana al suo posto. E so che altri preti, pur abituati a confessare a lungo, nei pellegrinaggi, hanno detto la medesima cosa. Ebbene, carissimi, il confessionale, divenuto per lui tomba anticipata, fu il luogo in cui ha maggiormente sofferto. Ed estate, nella sua piccola chiesa, il caldo diventava così soffocante che, secondo la sua precisa affermazione, gli dava un'idea delle pene dell'inferno. E pensate, tormentato dall'emicrania, fu obbligato a tenere delle compresse di acqua fredda sulla fronte anche mentre confessava. In più, nei giorni in cui l'afa diventava più opprimente, l'aria della piccola navata si corrompeva fino al punto da provocare vera nausea a questo eroico confessore, che per resistere doveva aspirare aceto o acqua di colonia. Al contrario, durante l'inverno, in questa parte della Francia, il gelo è molto intenso, vero? Soprattutto quando il vento di tramontana soffia dalle Alpi. E più volte il santo, mentre stava confessando, perdette i sensi per causa del freddo e delle sue infermità. Don Dubois gli chiese un giorno: «Come vi è possibile, signor curato, resistere così a lungo, quando fa freddo, senza usare nulla per riscaldare i piedi?» Risposta: «Amico mio, la ragione è precisa. Dalla festa dei santi fino a Pasqua i miei piedi non li sento più». E il canonico Alessio Taillad di Montpellier, che passò con lui una parte dell'inverno 1839, riferisce che i piedi di questo povero prete erano in tale stato che alla sera la pelle del tallone rimaneva nelle calze. E talvolta, nell'odevole intento di alleviargli la fatica, si collocarono nel suo confessionale dei cuscini imbottiti di paglia, ma egli non li tollerò mai. Ancora durante l'inverno 57-58, onde riuscire ad attenuare il freddo, si dovette ricorrere all'astuzia di approfittare ogni notte della sua assenza per mettere una scaldapiedi sotto il suo confessionale, impegnandosi a rinnovare l'acqua calda, a più riprese durante la giornata. E dobbiamo dire che dapprima non se ne accorse, e il giorno in cui si rese conto di questa astuzia, lasciò fare, per ragione della sua salute, che si indeboliva sempre di più. Anche nella sacrestia, dove confessava agli uomini, faceva così freddo che dovette talvolta bruciare un foglio di carta per portare un poco di sollievo alle sue mani intirizzite. Ma badate, non acconsentì che Don Tocanier portasse là una stufa, fino al giorno in cui non gli fecero osservare che l'eccessiva umidità avrebbe in breve tempo guastati i paramenti. E dobbiamo dire infine, carissimi, che per lungo tempo non usò riscaldare nemmeno la sua camera. È ben vero che negli ultimi 15 anni il maestro Pertinand e uno dei fratelli della Sacra Famiglia durante l'inverno avevano cura di preparare un buon fuoco prima del suo arrivo, ma al suo arrivo il santo non poteva più riscaldarsi e anche il suo sonno doveva essere molto turbato. E così, al sopraggiungere della primavera, era facile comprendere anche dalla sua espressione che quella era per lui, come per la natura, un'epoca di sollievo. Così, carissimi, anche per oggi abbiamo concluso la nostra storia, sempre affascinante, anche se ci scuote non poco. Comunque, io spero che non siano scossoni nocivi, ma al contrario siano scossoni salutari che ci aiutano a recuperare l'autenticità cristiana. Dedichiamoci come sempre, carissimi, alla liturgia della prossima domenica. Sentiremo che la prossima domenica si prosegue il discorso della montagna. E Gesù dice di non essere venuto ad abolire la legge, i profeti, ma di essere venuto a compiere la legge e i profeti. Allora ascoltiamo le tre letture e poi cercheremo di fare un po' di commento, così alla buona, come sempre, in attesa di ricevere il migliore commento che viene dai sacerdoti che stanno a casa. Prima lettura dal libro del Siracide. Siamo al capitolo 15, dal verso 16 in avanti. E parla della libertà. Se vuoi, osserverai i comandamenti. L'essere fedele dipenderà dal tuo buon volere. Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua. Là dove vuoi, stenderai la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Egli è onnipotente e vede tutto. I suoi occhi su coloro che lo temono. Egli conosce ogni azione degli uomini. Egli non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Parola di Dio. E ora, carissimi, dedichiamoci subito alla seconda lettura, di cui faremo pure un breve commento dopo. San Paolo parla di una sapienza che non è di questo mondo e quindi rimane nascosta ai dominatori, ai potenti di questo mondo, ma viene rivelata solo ai perfetti, nei quali intende i piccoli, i poveri, coloro che si aprono con la fede alla luce di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, siamo al capitolo secondo, dal verso 6 in avanti. Fratelli, tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio. E ora, carissimi, uniamoci tutti insieme nel canto dell'Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, allora, adesso, carissimi, vogliamo disporci all'ascolto di questo lungo brano evangelico dal discorso della montagna. Dal Vangelo secondo Matteo, siamo sempre al capitolo quinto, dal verso 17 in avanti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello stupido sarà sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti ha occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti ha occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. E ora, carissimi, qualche piccola, breve riflessione dallo studio, in attesa di ricevere poi le telefonate dei sacerdoti. Ecco, mi pare molto bello che questa liturgia capiti proprio il giorno di San Valentino, 14 febbraio, il santo degli innamorati, perché questa liturgia, come vedremo, in definitiva parla soprattutto di amore. Ecco, potremmo benissimo definire il contenuto profondo del discorso della montagna, giunto oggi alla terza tappa, come una sapienza che non è di questo mondo. Cioè, per capire il discorso della montagna, per assimilarne il contenuto, non basta la ragione umana, non basta l'intuito umano, ma occorre una grazia speciale, occorre una illuminazione speciale. Avete sentito cosa dice San Paolo nella seconda lettura? Dice che se ne può parlare soltanto tra i perfetti. E sì, perché questa sapienza è una sapienza divina e misteriosa, che non appartiene ai dominatori di questo mondo, i quali vengono ridotti al nulla, i quali vanno in rovina. E dice che questa sapienza divina neppure può essere conosciuta dai dominatori di questo mondo. E conclude dicendo che se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Dunque il discorso della montagna, secondo il linguaggio di San Paolo, è inteso solo dai perfetti. E mi pare che qui perfetti, nel suo linguaggio, sia proprio l'esatto contrario di potenti, vero? Chi sono i potenti? Beh, sono appunto quelli che hanno il potere, quelli che Paolo chiama dominatori, dominatori di questo mondo. Bene, costoro vorrebbero impadronirsi della verità, per fare anche della verità, se possibile, quasi un monopolio, vero? Ma questo, per fortuna, è loro negato. La verità, invece, al contrario, è retaggio, diciamo pure che è monopolio, nel senso migliore, dei perfetti, I perfetti che sono sostanzialmente gli umili, i piccoli, i poveri. Quindi perfetti non nel senso che non hanno peccati, ma nel senso che viene loro partecipata una scintilla della perfezione divina, una scintilla della grandezza, della gloria di Dio, che dà loro, che li arricchisce di una grande dignità, di una straordinaria e incomprensibile nobiltà d'animo. Per cui sono dei pezzenti, sì, all'occhio umano, ma nello stesso tempo sono dei signori, dei veri signori, che alla fine sono molto più ascoltati, più onorati, che non i potenti della terra con tutta la loro boria, con tutta la loro superbia. E adesso facciamo subito una prima pausa musicale, in attesa poi di continuare con qualche commento sulla prima lettura. Ecco, le pause musicali di oggi sono dedicate all'organo francese, agli antichi compositori d'organo francesi. E qui, carissimi, prima di affrontare, sia pure alla buona, il brano evangelico, io vorrei fermarmi un attimo anche sulla prima lettura. La prima lettura, a guardar bene, ci dice delle cose scioccanti, da metterci letteralmente KO. Ci dice che Dio non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. quindi non è lui causa del male che c'è nel mondo. E fin qui siamo tutti d'accordo. Ma ci dice nello stesso tempo, ed è la cosa certo più drammatica, ci dice che tutto dipende da noi, e ci dice che in pratica la salvezza, diciamo pure la salvezza eterna, dipende unicamente dal nostro buon volere, dal tuo buon volere. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Ecco, davanti a noi stanno il fuoco e l'acqua. E noi abbiamo questo potere tremendo, rischiosissimo, che cioè possiamo stendere la mano là dove vogliamo. E la cosa, a pensarci bene, carissimi, fa molta paura, vero? Perché? Perché fa molta paura? Beh, semplicemente perché noi constatiamo con terrore che l'uomo, per una specie di istinto perverso che ha dentro, è più propenso a scegliere il male che non a fare il bene. Preferisce scottarsi col fuoco che non dissetarsi sobriamente alle chiare, fresche e dolci acque, no? Come dice il poeta, a quell'acqua che San Francesco definisce utile e tumile, e preziosa e casta. L'uomo preferisce il fuoco. E questa è certo un'osservazione che ci riempie di molta amarezza. E ci fa dire a volte, sragionando, ma era meglio non averlo questo dono della libertà. Era meglio nascere senza anima e senza volontà, come gli animali, che agiscono per istinto, per necessità, e che sono assolutamente privi della libertà. Però, carissimi, io vi dico, vi rispondo, ma come era meglio? Era meglio un corno. Senza libertà, come facevamo ad amare Dio? E come facevamo poi a possederlo per sempre, lassù nel cielo, lassù in paradiso? Dunque la libertà è veramente ciò che ci distingue da tutte le altre creature dell'universo. È ciò che ci rende veramente grandi ed è ciò che ci permetterà di conquistare un giorno, come speriamo, la felicità eterna. Per cui esercitiamoci a usare bene la libertà, a usarla non contro di noi, ma piuttosto a nostro vantaggio. Ecco, direi che nel caso della libertà dobbiamo fare il più possibile i nostri interessi, vero? Qui sì che fare i propri interessi è giusto, è saggio. Negli altri casi no, ma in questo caso sì. Certo che chi, per esempio, abusa dell'alcol o abusa del fumo o della droga o del sesso o roba del genere non fa i propri interessi, niente affatto. Non fa i propri interessi e dimostra di usare male la libertà. Ecco, fermiamoci ancora un attimo, poi passeremo al brano evangelico. Qui allora, carissimi, vediamo di esaminare un attimo anche il brano evangelico, che oggi è stato lunghissimo. Avete inteso che fu detto agli antichi: ma io vi dico, di solito, come sapete, vengono chiamate antitesi, e le famose sei antitesi del discorso della montagna, oggi ne abbiamo sentite quattro. Ecco, però io mi permetto, carissimi, di dire molto modestamente che la parola antitesi non va bene, secondo me, non va bene, non è corretta. Perché? Beh, perché dicendo antitesi sembra quasi che Gesù voglia prendere le distanze da quanto fu detto agli antichi. E questo non è vero. Questo non è neppure possibile. In effetti non ci sono due leggi, ma un'unica legge morale. E colui che parlò agli antichi, chi era? Era forse un comunissimo legislatore umano soggetto all'errore come tutti gli uomini? No, affatto. Chi parlò agli antichi era esattamente lo stesso legislatore divino che sta parlando adesso sul monte, che sta parlando adesso ai suoi discepoli sulla montagna. Era sempre lui, Cristo, era sempre Dio che parlò agli antichi. Dunque nessuna contraddizione tra legge antica e legge nuova. E Gesù dice esplicitamente: io non sono venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto a tirar via neanche una virgola dalla legge antica, ma piuttosto sono venuto a dare compimento alla legge antica. Il discorso della montagna dunque va visto non in contraddizione con la legge mosaica, ma piuttosto in continuità con la legge mosaica. Gesù non prende le distanze dai 10 comandamenti, ma semmai radicalizza ancora di più i 10 comandamenti. Ossia ci fa capire che sono esigenze irrinunciabili, senza le quali non possiamo affatto piacere al Signore e non possiamo affatto vivere da figli di Dio e di conseguenza non possiamo affatto ereditare il regno di Dio. Allora qui, carissimi, notiamo bene queste parole chiave. Gesù dice a un certo punto: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, carissimi, da che cosa Gesù vuol prendere le distanze. Badate, non dai 10 comandamenti, e ci mancherebbe altro, ma piuttosto da un'interpretazione sbagliata, errata dei 10 comandamenti, e precisamente dall'interpretazione degli scribi e dei farisei, i quali, a quanto sembra, avevano dimenticato lo spirito dei 10 comandamenti, per fermarsi unicamente alla lettera, anzi, alla lettera che loro stessi avevano creato, dato che, come sapete, avevano complicato enormemente la legge mosaica, tirandone fuori ben 613 norme. L'avevano fatta perciò diventare opprimente anziché liberante. Senza dire, carissimi, che per loro la legge morale era solo questione di osservanze esteriori, vero? Quasi che attraverso queste osservanze esteriori tu ti puoi benissimo salvare, senza bisogno di amare Dio e di amare il prossimo. Quasi che i comandamenti fossero qualcosa di autonomo e non invece la traduzione pratica del duplice precetto dell'amore: ama Dio e ama il prossimo. Capite allora come Gesù qui non solo si riallacci al decalogo mosaico, ma intenda anche riportare il decalogo mosaico, diciamo, nel giusto alveo, nella giusta direzione voluta da Dio. Perciò fa opera di perfezionamento, sì, ma insieme fa anche opera di risanamento. E qui possiamo fare una ultima pausa musicale. E difatti ciò è ben dimostrato dagli esempi che fa. Dice ad esempio: non solo non devi uccidere, ma non devi neppure arrabbiarti col fratello e devi evitare in ogni modo di insultarlo, di prenderlo in giro. E se non sei in pace col fratello, o almeno non ti sforzi di essere in pace col fratello, Dio non può affatto gradire la tua offerta, per cui il tuo culto diventa vano e inutile. Vedete che qui non abolisce il quinto comandamento, anzi, ne fa vedere tutte le esigenze, anche più piccole. Poi dice ad esempio: non solo non devi commettere adulterio, ma devi evitare anche il desiderio, devi evitare anche l'intenzione segreta di tradire tua moglie o tuo marito. O nel caso di sacerdoti, o nel caso di consacrati a Dio, devi evitare anche il desiderio di tradire la tua vocazione. Per cui cosa devi fare? Ecco, devi tagliar via radicalmente dalla tua vita tutto ciò che ti potrebbe indurre in peccato. Castigando gli occhi, per esempio, vigilando attentamente sugli spettacoli televisivi, per esempio, per te e per i tuoi cari. E così evitando di andare o di prendere in mano o comunque di avvicinarti a ciò che potrebbe costituire per te un pericolo di offendere il Signore, e di farti dei debiti col Signore. E infine Gesù dice che piuttosto che trasgredire i giuramenti è meglio non giurare affatto. E mi pare che qui, dato che si sta parlando dell'adulterio e del divorzio, mi pare, carissimo, una velata ma chiara allusione al giuramento del matrimonio, al patto coniugale, che è un giuramento davanti a Dio ma anche davanti al coniuge. Ecco, piuttosto che trasgredire, piuttosto che tradire il patto coniugale scegliendo il divorzio, è meglio non sposarsi neppure. È meglio non sposarsi affatto. E questo, secondo me, è un caldo invito a riflettere bene, a riflettere molto, prima di decidersi per il matrimonio. Sembra che Gesù dica: vedete di conoscervi bene, vedete di valutare bene se siete fatti veramente l'uno per l'altro, che non sia solo un effimero gioco di sensi, che non sia solo una questione di concupiscenza, di passionalità, perché i sensi un giorno taceranno, forse anche presto, ma il vero amore non tace mai, non muore mai, non finisce mai, il vero amore. Per cui ciò che conta è che ci sia l'amore, però badate, il vero amore, quello che non cerca il proprio interesse,